È normale che ci sia il per la legge. Deus sol invictus, Mediolanum, Tank Man. Oltre i limiti, salvo dei morti che camminano. Ambiziosi perché vivono, tu prega la Madonna, militari e si scrivono. Le gesta della legge, oltre i limiti si spingono. Capisci bene, capisci perché cosa muoiono. E io mi spingo il fine ai limiti, fanculo non mi imiti. Io spingo i denti, io vado fiero dei miei lividi. La gente dice basta, mi spingo ancora a credici. Dogadi si devasta, MC da pesi massimi. Io non mi arrendo mai, nella vita sono unico. Io vivo da soldato, niente amore, troppo stupido. Copido muore, schiacciato delle mie ambizioni. Vivo nel dolore, la gloria non ammette buoni. E io combatto per la legge, io muoio per la legge. Deus sol invictus, legge, le mie aquile io seguo, sì. Oltre i miei limiti, mi spingo ogni giorno così. Fanculo i limiti, distruggo questo mondo. E io combatto per la legge, io muoio per la legge. Deus sol invictus, legge, le mie aquile io seguo, sì. Oltre i miei limiti, mi spingo ogni giorno così. Fanculo i limiti, distruggo questo mondo così. Siamo morti che camminano, ambiziosi perché vivono. Tu prega la Madonna, militari e si scrivono. Le gesta della legge, oltre i limiti si spingono. Capisci bene, capisci perché cosa muoiono. 7 giorni su 7 io vivo contro questo mondo. Nessuno ti sostiene, neanche quando tocchi il fondo. Qui non esiste pietà, non mollo un secondo. Non credo in al di là, credi in quello che racconti. Easy flow, la mia rima, guerrigliera, la mia vita. Voglio cash flow che gira, voglio soldi, bambina. Combatto duramente perché l'alba si avvicina. Uccido questa notte mentre sputo un'altra rima. Questa gente è minina, questo MC non si inchina. Io mi fotto la regina, tutta rocco come in Cina. Scacco matto, cretina, io riempio questa pila. Nascondo banconote coi cadaveri in cantina. E io combatto per la legge, io muoio per la legge. Deus sol invictus, legge, le mie aquile io seguo, sì. Oltre i miei limiti, mi spingo ogni giorno così. Fanculo i limiti, distruggo questo mondo. E io combatto per la legge, io muoio per la legge. Deus sol invictus, legge, le mie aquile io seguo, sì. Oltre i miei limiti, mi spingo ogni giorno così. Fanculo i limiti, distruggo questo mondo così. Seguo solo le mie aquile, tu segui Gesù Cristo. Io seguo le mie insegne, il Dio solo invito. Seguo solo le mie aquile, tu segui Gesù Cristo. Io seguo le mie insegne, il Dio solo invito. Preso a modello Giulio Cesare, mi spingo oltre il Tevere. Ho smesso di obbedire, io non seguo più le regole. Il dado è tratto, qui non è tempo per le remore. Spregiudicato, il cuore mio è troppo sterile. E troppa gente rema contro, ha paura dello scontro. Dicono che devo smettere, ma non mi posso arrendere. La fortuna è degli audaci, la pace per gli incapaci. Istinti troppo rapaci, animi troppo randagi. Io non accetto ciò che dici, tu sei disfattista. Tu resti fuori, io combatto invece nella mischia. In prima fila il soldato il suo mondo rischia. Oltre i miei limiti, ambire è una cosa giusta. E io combatto per la legge, io muoio per la legge. Deus sol invictus, legge, le mie aquile io seguo, sì. Oltre i miei limiti, mi spingo ogni giorno così. Fanculo i limiti, distruggo questo mondo. E io combatto per la legge, io muoio per la legge. Deus sol invictus, legge, le mie aquile io seguo, sì. Oltre i miei limiti, mi spingo ogni giorno così. Fanculo i limiti, distruggo questo mondo così.